Benvenuti e benvenuti, prima edizione di questa carità, di questo Festival della Letteratura. E è un esperimento, quindi chiaramente vediamo come andrà. Siamo abbastanza in realtà emozionati perché appunto è la prima volta che tentiamo di fare questa cosa. Abbiamo deciso di iniziare questo festival che, come avrete visto, insomma, ha diversi temi, cioè abbiamo cercato di spaziare il più possibile negli argomenti e anche nei generi un po' della letteratura, e abbiamo deciso di iniziare da un libro che parla di narrativa. È anche questo un libro a tutti gli effetti di saggistica, se dobbiamo dare delle definizioni, nel senso che parla della narrativa ma non è narrativa in sé, possiamo dire così, non è un romanzo, però parla di narrativa e racconta un po', ci fa delle analisi, delle speculazioni, dei racconti su in particolare la letteratura distopica. Abbiamo deciso di iniziare da un libro di questo tipo perché in realtà ci piaceva dare importanza e spazio all'interno di questo festival alla letteratura, chiamiamola così per fare una distinzione, non saggistica, quindi alla narrativa. All'interno di questo genere chiaramente poi ci può stare di tutto, chiaramente la narrativa è un mondo, così come i saggi sono un mondo, però la riflessione che stava un po' alla base e che magari, se ci abbiamo voglia, potrebbe essere anche un po' un filo conduttore di questo primo incontro, è una riflessione sul fatto che nei nostri spazi, nei nostri luoghi liberati, nei posti occupati, autogestiti, insomma negli spazi che frequentiamo abitualmente, storicamente abbiamo l'impressione, almeno chi vi parla ha questa impressione, che ci sia molta saggistica, molti libri di saggi, molte analisi sul reale e sul presente, e ci sia molto poco spazio invece per i mondi immaginari, per quello che è la letteratura fantastica, l'immaginario, l'immaginato. Immaginario che può essere, come in questo caso, distopico, non solo, poi vedremo, ma anche utopico. Questo non perché noi leggiamo poca narrativa, perché a ben vedere, se poi andiamo a indagare, tirando fuori le informazioni con le pinze, in realtà io sono convinta che molti di noi leggono moltissima narrativa. Non la scriviamo, abbiamo più difficoltà a scriverla, abbiamo molta difficoltà nel pubblicarla, nel farla uscire, e generalmente quello che facciamo è leggere, pubblicare, dare spazio a una narrativa scritta dai grandi, quindi molto spesso leggiamo libri di grandi case editrici, anche perché le chiamiamole piccole case editrici, comunque le case editrici a noi vicine a loro volta danno poco spazio alla narrativa. Quindi in realtà nei nostri info shop, nelle nostre librerie, si trova, fateci caso, molto spesso molti più saggi che non narrativa. In realtà questa, noi che abbiamo un po' iniziato a ragionare su come strutturare questo festival di letteratura, ci sembrava una mancanza importante, perché riflette in qualche maniera anche una mancanza di coraggio o di... forse non solo coraggio, però insomma di fatto una difficoltà nell'immaginare un futuro, perché se non abbiamo non ci sentiamo a nostro agio nel prenderci la libertà di scrivere di mondi immaginari, allora come possiamo politicamente poi spingere un mondo immaginario se neanche lo sappiamo immaginare? Quindi ci è sembrato un indice e un sintomo di un problema. E quindi volevamo partire un po' da qui. Abbiamo invitato Marco, che ringrazio ovviamente di aver accolto questo invito, e in realtà è stato un invito strano perché ci ha scritto e quindi è stato un aggancio perfetto, che ha scritto questo libro, appunto, Viaggio nella letteratura distopica, Ombre dal futuro, che racconta, poi appunto tu ci racconterai meglio tutto quanto, un po' un mondo che è stato scritto, magari non da noi, ma è stato scritto dai più grandi, dalle più grandi, dai più o meno conosciuti autori nell'arco di tanti centinaia di anni, e in epoche diverse si è parlato di distopie, di utopie in maniera ovviamente molto diversa. E quindi anche con l'augurio un po' di ricominciare a prendere coraggio nell'immaginare futuri anche negativi, se questo ci può servire a poi immaginare quelli belli che vorremmo. Con questo augurio cominciamo da qua, quindi ti lascio un po' la parola. Sì, sì, grazie. Grazie tanto a voi presenti e a te per l'introduzione, perché mi hai già dato talmente tanti spunti che mi hai mandato in confusione. Ecco. Nel senso che, per esempio, io divento saggista perché un editore, oggi mi pubblica Malamente, 20 anni fa mi pubblicava Malatempora, perché l'editore riceve un mio romanzo e mi scrive dicendo Marco, noi abbiamo apprezzato il tuo romanzo, ma non lo pubblichiamo, sto parlando del 2000-2001, perché i romanzi sono dei bagni di sangue. Però nella tua scrittura abbiamo visto la capacità di scrivere in una certa maniera che potrebbe arrivare ai giovani. Quindi ti chiediamo se vuoi scrivere per noi dei saggi. Io ero talmente alle prime armi che rispondo, guarda che io sono un perito meccanico, che c'entro io col saggio? Immaginavo, hai capito, l'uomo con la barba bianca. No, dice Marco, tranquillo, non è quello. Cioè, tu sei un ricercatore, tu cerchi le informazioni. Una volta che le hai trovate, le poni a un pubblico in una maniera che secondo noi può funzionare. E quindi lascia perdere, non sono necessarie due lauree, è come trasporti l'informazione. È da lì che io divento saggista, che mi fa sorridere ancora adesso. Quindi è già il mercato che addirittura trasforma lo scrittore di romanzi in saggista, perché tutti quanti da almeno 25 anni ti dicono che la prima cosa che si vende nelle librerie sono i saggi, in seconda battuta i romanzi, e al terzo posto le raccolte di racconti, e al quarto posto, ultimissimo, le poesie. E quindi funzionano i saggi, quindi per far pareggiare i bilanci, tu butti sul mercato due romanzi, ci perdi, prima di chiudere ci butti due saggi, ci guadagni qualcosa e pareggi. Questa è la prima cosa che mi viene da raccontare, da dire. La seconda è che è notizia di questi giorni che mi ha scritto Marco, il Duca di Roma, persona straconosciuta. Faccio qualche pasticcio con il microfono. No, prova, guarda, ti do questo. Okay. Con questo vado meglio? No, uguale? No, meglio. Okay. Il Duca scrive per l'agenzia X, nel mondo, diciamo, antagonista e straconosciuto a Roma, e infatti lui è quello che, leggendo sto libro, dice Marco, io ti vorrei portare a presentare questo libro al Forte Prenestino. Okay. E va e parla con i boss, no? Chiamiamoli così, che dopo una settimana non danno alcuna risposta. Dopo due settimane non rispondono e dopo un mese finalmente menano il camperlaio, ovvero non danno una risposta definitiva al Duca. Il Duca capisce e dice, guarda Marco, facciamo una cosa, questi qua del Forte Prenestino vogliono soltanto gente che ha scritto saggi, che fa dei gran pipponi, perché o fai dei gran pipponi e sei noioso, se no non sei alternativo. E hai scritto delle cazzate, quindi vado da quel paese e mi rivolgo ad un altro centro sociale di Roma conosciutissimo per essere frequentato da universitari, lui li chiama i Pischelli, che vedrai che con loro andremo meglio. In realtà i Pischelli ancora oggi gli devono dare una risposta, perché anche loro dico, questo non è proprio un saggio, perché parla troppo di romanzi, e quindi, perché anche fra di noi siamo tutti così, no? Siamo abbastanza a sinistra, antagonisti, oppure, perché se non sei sufficientemente antagonista potresti anche non essere degno di stare lì. Ed è una cosa che forse mi porta fortuna in un altro senso, perché poi il Duca ostinatamente sta sponsorizzando questo libro e mi ha fatto avere un contatto, per adesso soltanto un contatto, con Rai 4. Guardiamo se va a finire, se si conclude qualcosa. Però sono le prime due cose che mi hai fatto venire in mente tu adesso parlando, perché pare che soltanto un saggio comandi, quando invece se c'è, secondo me, un mezzo che funziona per portare certi messaggi, è proprio il romanzo. Io francamente alla grande depressione degli Stati Uniti d'America non mi ci avvicino a mezzo di un saggio o di un pippotto di qualche duro, ma grazie a Steinbeck. Quindi io mi leggo Furore e poi mi leggo cerco La Battaglia, eccetera. Però se io poi mi informo e vengo a sapere il perché c'è stata la grande depressione negli Stati Uniti, cosa è successo e come si muovevano le masse da una parte all'altra, devo ringraziare Steinbeck, che non solo ha scritto quel romanzo, ma ha scritto anche fior di articoli mentre seguiva come giornalista questa migrazione di popoli. Quindi è un romanzo quello che mi aiuta a capire determinate cose. E francamente, quando parlo con le persone, ci si rende conto che certi romanzi, se fossero stati letti anche in una certa maniera, avrebbero aiutato tanto. Perché dico in una certa maniera? Perché quando vai nelle scuole e parli con gli studenti e racconti qualcosa di niente di nuovo sul fronte occidentale, loro ti dicono: no, aspetta un attimo, di questo libro me ne ha parlato il professore, che peraltro è presente quando io incontro gli studenti, però non me ne ha mai parlato così. Quindi tu hanno queste liste di titoli da leggere per le feste di Natale o per le vacanze estive, dove ovviamente scelgono il più corto, il più facile, sì, perché non ne possono più di questi romanzi che sono stati presentati in una maniera che i ragazzi si allontanano. Quindi è anche vero che non solo nei romanzi ci stanno tante risposte a quello che ci sta intorno, ma bisognerebbe anche saperli proporre questi romanzi qua, così forse finalmente arrivo a parlare di questo libro qua, dove io raccolgo 82 romanzi di letteratura distopica, ma è una letteratura, diciamo, che me la sono inventata, perché qualcun altro, quando io tratto i viaggi di Gulliver, probabilmente mi direbbe: no, questa non è letteratura distopica, è letteratura fantastica. Oppure altri sicuramente verrebbero inseriti nella letteratura fantascientifica. Quindi la letteratura distopica per me sono tutti quei romanzi che hanno trattato argomenti distopici, o comunque per me distopici, perché ricordiamoci sempre che ciò che per me è distopico, cioè contrario all'utopia, diciamo, un mondo negativo, opprimente, per altre ideologie non è distopico. Quindi bisogna anche fare i conti con questo. Probabilmente mi viene in mente la Scuola dei Disoccupati, un romanzo che tratto in questo libro qua, dove nel 2000 viene scritto e si immagina una società distopica come con persone che il loro lavoro è praticamente, infatti la Scuola dei Disoccupati è cercare lavoro. Cioè nel 2000 si immagina un mondo che è già attuale, cioè dove il lavoro di tanta gente è cercare un lavoro. Beh, probabilmente un grande industriale mi direbbe: Ciccio, per te questo è il mondo distopico, per me questo è il mondo utopico. Io non mi sembra neanche vero di avere masse di gente che passano la giornata a mandare curriculum, a cercare lavoro, perché così io posso assumerne quanti ne voglio, al prezzo che voglio, quando voglio. Quindi spero di aver fatto un esempio calzante per spiegare quanto ciò che per me è distopico per un altro può essere utopico. Partendo da questo principio, mi sono appassionato a determinati romanzi, come appunto l'ho citato prima, I viaggi di Gulliver. Cito questo perché secondo me è un esempio eclatante di come, leggendo un romanzo che ce l'hanno sempre venduto come Gulliver e i Lilliputiani, no? In cartoni animati, anche nelle edizioni ridotte che vendono per i bambini, in realtà Jonathan Swift 300 anni fa, non 30 anni fa, 300 anni fa, ci diceva che c'era qualcosa che non funzionava nell'aristocrazia inglese. Lui diceva, non, ovviamente con altre parole, infatti lui usa termini che qualcuno ha usato ultimamente, lui non parla del pianeta, sì, del mondo, parla del terracqueo. Dice: noi mandiamo vascelli in ogni angolo del pianeta, del sì, terracqueo. Quindi usa un altro linguaggio, però quello che dice in un passaggio è: gli aristocratici inglesi non fanno più la colazione a chilometro zero, cioè non ci accontentiamo più di mangiare e bere ciò che ci sta accanto, ma mandiamo vascelli in ogni angolo del pianeta, quindi quello che ho detto prima, a recuperare che cosa? Creme, liquori, e cita anche il vasellame, perché poi gli aristocratici avevano bisogno di far colazione anche in certe tazze, con certi vassoi. E questo uno potrebbe dire, non è che c'entri molto con il mondo di oggi, perché noi oggi non è che andiamo a prendere le creme dall'altra parte del pianeta. In realtà comunque dall'altra parte, magari è anche vero che ci andiamo, sì. Ok. Comunque dall'altra parte del pianeta ci facciamo arrivare, se non con vascelli, con degli aerei, con dei cargo, con qualsiasi oggetto. Io stesso, nel cercare di recuperare alcuni titoli di letteratura distopica che non trovavo, mi sono appoggiato ad un collega, perché io sono un cane con queste cose, e ho ordinato tramite, lui ha ordinato tramite Amazon, ma sono stato io ad alimentare questo mercato, dei libri introvabili, che ce n'era più una copia usata, e io di quella avevo bisogno, i librai non riuscivano a procurarmela, e ho dovuto appoggiarmi a chi? Ad Amazon, o comunque non so chi avrà messo in moto un furgone, una moto, ma se non voglio un romanzo, voglio qualcosa di altro, metto in moto, e stiamo tutti quanti mettendo in moto qualcosa che alla luce poi dei fatti è un disastro ambientale. Quindi 300 anni fa Jonathan Swift già ci diceva nei Viaggi di Gulliver: c'è qualcosa che non va. Se in 300 anni questo romanzo è passato sempre per Gulliver e gli Lilliputiani, io ho il timore che qualcheduno abbia fatto sì che questo romanzo passasse solo per quello e non passasse per altro. Perché è vero che poi quando lo leggi questo libro vecchio di 300 anni, a tratti può risultare anche un po' noioso. Però, Cristo, quanta roba noiosa sopportiamo. Arriviamoci in fondo a sta lettura e possiamo scoprire tante cose che non sono solo distopiche, sono anche rivoluzionarie, perché ricordiamoci che ad un certo punto, quando ai Lilliputiani si incendia la casa della principessa e non sanno come spegnere l'incendio, chiamano Gulliver. E Gulliver, che aveva un po' bevuto e aveva la vescica piena, l'incendio della casa della principessa lo spegne pisciandoci sopra. Per questo qua nelle versioni ridotte destinate ai bambini non c'è, però a me quello che è arrivato è che 300 anni fa Jonathan Swift sulle case dei reali ci pisciava sopra. Quindi lasciatemi, cioè, non è poco. E poi mi dice anche la storia dei vascelli che arrivano ad ogni angolo del pianeta e mi rimanda a tutti i corrieri che oggi li facciamo muovere. Questo va bene, questo fa parte per me di un aspetto di una società che, anche se all'epoca poteva ancora non essere distopica, però aveva già buttato i primi semi di questa. In poche parole, io ritengo che se noi leggessimo letteratura narrativa e la leggessimo, sì, d'accordo, anche per passatempo, ci mancherebbe altro che noi non ci si possa mai rilassare, e facendoci anche trascinare dalla trama, perché no, e dal finale sorprendente, ci mancherebbe, però facessimo attenzione a determinati passaggi, io temo che anzi sono certo che potremmo imparare tante cose. Faccio l'esempio di Primo Levi. Allora, Primo Levi, noi lo conosciamo per Se questo è un uomo e tutti i suoi titoli famosissimi, ma nessuno, o perlomeno forse sono io che sono stato distratto, bene, io non sapevo che Primo Levi aveva scritto decine di racconti e che queste decine di racconti erano state raccolte in almeno tre libri da Einaudi e pubblicati negli anni 60 e 70. Questi racconti, se li andiamo a leggere, ci anticipano una marea di cose che stiamo vivendo o che abbiamo appena vissuto. Lui li scrive negli anni 50 e 60. Lui, per esempio, in un racconto ci narra di una macchina, di un macchinario, che se noi gli diamo alcune parole, questo macchinario è in grado di scrivere una poesia, di scrivere un racconto. Questo è già attualità. Ci sono intelligenze artificiali che pare che non solo scrivino articoli che noi ogni tanto leggiamo, ma siano già in grado di scrivere libri. E qualcheduno, se non sbaglio, sta anche già parlando di pubblicarli. Questa è una cosa che Primo Levi ci anticipa. Un'altra cosa che ci ha anticipato, ci anticipa in un altro racconto. In questo racconto lui parla di il pianeta Terra che per decenni attraversa uno sciame di micrometeoriti. Sono micrometeoriti, essendo micro, molto piccole, però, così dicono, se ti colpiscono ti uccidono. E quindi l'unica soluzione per salvarsi è andare in giro vestiti non più normalmente, ma con una corazza. Questa corazza ti può salvare dalle micrometeoriti. Benissimo, quindi il racconto si apre, ci sono quattro persone che si muovono all'interno di questo racconto. Sono praticamente una coppia che va a casa di un'altra coppia a cenare. Si siedono a tavola, sono tutti con la corazza indosso e si fanno anche un po' i complimenti, perché uno dice all'altro: la tua corazza è, con gli anni che passano, è più leggera, è meno ingombrante. E anche i bulloni scricchiolano di meno. E quando devono mangiare, loro aprono uno sportello e mangiano. Ma quando sono a tavola e parlano di questo modo di vivere, di queste corazze che sono obbligatorie per legge, uno dei quattro sostiene che però non è tanto convinto che queste corazze siano così necessarie. L'altro dice: come non sono necessarie? Dai, è scritto da tutte le parti che si muore colpiti da micrometeoriti. L'altro risponde: no, guarda che c'è qualcheduno che dice che quelli morti veramente colpiti da micrometeoriti sono pochissimi, 30, 40, 60. I più tanti sono morti, sì, magari perché colpiti da micrometeoriti, ma perché avevano già altri problemi. Ditemi voi se questo non è il Covid. Le corazze sono le mascherine, e la micrometeorite è il Covid stesso. Ora, uno può dire: ma Primo Levi aveva la sfera di cristallo, aveva veramente pensato al Covid? Probabilmente no. Ma se quel racconto durante il Covid fosse stato passato in televisione, per esempio, visto che di questi racconti negli anni 60 la Rai ne aveva fatto dei piccoli sceneggiati in bianco e nero, se questo racconto fosse stato passato in televisione, secondo me tanti avrebbero riconosciuto la realtà che stavamo vivendo con qualcosa che era già stato raccontato. E chissà che magari la teoria di questo signore che dice: ma guardate che questi micrometeoriti direttamente hanno ucciso poche persone, firmata Primo Levi, non avesse preso maggior forza. E io non sto dicendo avevano ragione quelli, non sto dicendo proprio né che avevano ragione gli uni né che avevano ragione gli altri, perché non ho elementi per... non credo che li abbia nessuno, però io sicuramente non li ho per dire cos'era giusto fare all'epoca o meno, ma dico soltanto che la letteratura ci poteva aiutare a capire che c'erano modi diversi di ragionare, che colui che ti diceva: guarda che io non sono proprio convinto che sia il Covid ad uccidere direttamente tutte queste persone, non fosse esattamente una stupidata. Perché? perché quando la cominci a leggere su un romanzo, su un racconto, e magari, ripeto, è firmata Primo Levi, non è firmata Marco Somariva, la cominci a prendere come plausibile. Soprattutto hai allenato la mente a possibilità diverse. E questo, infine, alla fine della storia, un romanzo è fare della palestra, palestra intellettuale. È vero che poi anche il saggio è palestra intellettuale, ci mancherebbe altro. Però spesso i saggi mettono in difficoltà, per esempio, chi è alle prime armi con la lettura, sia i ragazzi, sia quelli più adulti che hanno deciso di prendere in mano un libro. Il saggio a volte gli stronca le gambe, gli taglia le gambe, e quindi non smettono di leggere, e abbiamo perso delle persone. Ci sono dei romanzi invece che possono aiutare le persone. Ultimamente sono stato ospite di una casa di una scuola dell'entroterra genovese, e ho parlato con le terze medie. Per 2 ore il ragazzo più brillante, diciamo così, della classe ha preso in giro gli altri che ridevano, gli altri che leggevano, perché lui non leggeva e se ne faceva un vanto. Ma alla fine delle 2 ore, passando per uscire, mi ha chiesto se gli consigliavo un libro da leggere. Visto che aveva 13 anni, gli ho consigliato Il gabbiano Jonathan Livingstone, perché è vero che se lo leggi a 50 anni, dopo aver letto 2000 libri, quel libretto lì non ti dà più niente. Ma a 13 anni, io avevo più o meno 12-13 anni, quando l'ho letto mi ha aperto un mondo. Questo gabbiano che dice: io esco dal branco, dallo stormo in questo caso, e faccio vita se io, di mangiare il pesce che mi lancia il peschereccio, non lo voglio fare. Rompe col sistema. È palestra. Può darsi che quel ragazzino lì trovi proprio in quel racconto se stesso, che magari vuole rompere col sistema, ma gli si dà 2 elementi di più per contestare il sistema, perché, lo dicevi te prima, devi avere anche una narrazione da proporre. Tu contesti, ma proponi qualcosa o contesti per il gusto di contestare? E questo proporre qualcosa, a volte ce l'abbiamo dentro, ma ancora non l'abbiamo saputo descrivere a noi stessi. Lo si può trovare a volte nei libri, nei romanzi. Quando si dice un libro è bello, va bene, è bello. Perché è bello? Spesso definiamo, l'ho letto, e poi l'ho fatto mio questo concetto, definiamo bello un libro quando abbiamo trovato dentro qualcosa che avevamo già. Lo sapevamo già, l'abbiamo trovato soltanto scritto ordinatamente, ben configurato in 3 righe, anche a volte una frase soltanto, e tu lì dici: cavolo, questo lo pensavo, l'ho sempre pensato, non l'ho mai esposto così bene, però me lo prendo e lo espongo. Quindi in questi romanzi qua io credo che ci sia la possibilità di far parole per contestare ciò che di distopico ci sta intorno. Però non so se mi sto dilungando e voi... No, io ti volevo addentrarmi un po' nel tuo libro, in realtà, perché volevo farti un po' di domande su i vari romanzi che tu hai un po' descritto, di cui che ci hai un po' raccontato. E una cosa che mi interessava capire con te era, per esempio, il rapporto delle varie distopie, perché tu parti da, ora non mi ricordo qual è il primo, ora tu hai parlato di Gulliver, ma però è il secondo, infatti. Quindi parti da lontanissimo, sì, e arrivi fino praticamente ai giorni nostri. Ma chiaramente ogni distopia attraversa un'epoca storica, un mondo che è diverso, cioè una realtà, perché chiaramente la distopia parte da una realtà che è quella che vede, che poi trasfigura e rende diversa, ma neanche troppo. Insomma, molto spesso le distopie sono delle metafore di poi la realtà che si vive, oppure sono delle anticipazioni di un mondo di cui si vedono i difetti e si protraggono, insomma, si portano alle estreme conseguenze. Che rapporto c'è stato nelle varie epoche, insomma, nei libri che tu hai un po' analizzato, con la propria storia? Cioè, chiaramente non c'è sempre stato non c'è una distopia uguale all'altra, però è anche vero che ci sono degli elementi che magari ritornano e che sono propri di un'epoca. Mi viene da pensare il rapporto delle distopie molto spesso molto stretto con le macchine, con la tecnologia. che a un certo punto, per esempio intorno all'avvento della rivoluzione industriale, inizia a intravedersi. Quando poi inizia a esserci, per esempio, gli anni 30-40, quando le industrie intorno iniziano a prendere una piega ancora diversa, anche le distopie parlano di un mondo che sta evolvendo, che sta cambiando. Quindi che rapporto c'è con il mondo in cui ci si trova e la storia in cui si vive? Sì, hai ragione. Questo passaggio, questi cambiamenti di generi di distopia sono proprio legati alla industrializzazione di certe nazioni. Cioè è evidente che all'inizio i primi 7-8 libri distopici che tratto, 6 sono scritti da degli inglesi, e non è un caso, perché lì con la rivoluzione industriale, ma anche con la colonizzazione, perché quando Jonathan Swift parla di questi vascelli che arrivano in ogni angolo del pianeta, lui ne parla come inglese, perché noi, gli inglesi dell'epoca, l'aristocrazia dell'epoca se ne andava, attraversava l'Atlantico e andava nelle colonie inglesi, ma negli Stati Uniti, e poi andava dall'altra parte in India a prendersi nelle altre colonie qualcos'altro che gli occorreva. E quindi è molto dipendente da chi ha il potere in mano, in pratica. Cioè, alla fine del Settecento e nell'Ottocento sono tanti gli inglesi che scrivono, e cominciano a scrivere gli americani, Stati Uniti. Gli Stati Uniti poi arriveranno, per esempio, negli anni 2000, dal 2000 in poi, sono tantissimi gli americani che scrivono, sono molto di più dei restanti. Quindi mi sembra di poter dire che dipende molto dallo stato di, chiamiamola civiltà, come la chiamano, o progresso, no? Come viene chiamato, diciamo la fonte della letteratura distopica. Infatti ho faticato a trovare degli scrittori che non appartenessero al mondo occidentale. Ho dovuto ripiegare, diciamo così, su uno scrittore egiziano che ha scritto un romanzo che si intitola Utopia, perché volevo a tutti i costi trovare una voce che fosse diversa da quella del mondo occidentale, perché se non erano inglesi o americani, erano italiani o francesi, oppure dalla Repubblica Ceca magari, però non avevo voci alternative, e questa è una cosa che era balzata subito all'occhio. Per quanto riguarda gli argomenti, è chiaro che inizialmente la distopia era, diciamo, una società opprimente sotto l'aspetto lavorativo. Cioè l'Inghilterra dell'Ottocento ti viene raccontata da Dickens come un'Inghilterra che, a parte chi comanda, soffoca le persone. Cioè tu non fai altro che andare a lavorare, uscire distrutto fisicamente, provare a arrivare, diciamo, alla paga successiva, e poi tornare a lavorare il giorno dopo. Questo non viene più riproposto nelle distopie del giorno d'oggi. Al giorno d'oggi la distopia è il controllo della mente, è il controllo dell'essere umano. Quindi è quello che viene chiamato il transumanesimo, quindi l'applicazione di tecnologie sul corpo umano, che non era possibile poterlo scrivere 200-300 anni fa. Quindi c'è una sensibilità pari al mondo che ti circonda. Quindi è vero che qualcheduno, per esempio Jules Verne, nei 500 milioni della Begum, ti racconta che francesi e tedeschi stanno lavorando uno a un mondo utopico, l'altro a un mondo distopico, facendo man bassa di materie prime del territorio, e che inquinano anche. Però sono casi eccezionali. il mondo inquinato che ci toglie l'aria è più della fine del secolo scorso e dell'inizio di questo. Una cosa, secondo me, non singolare, ma secondo me è importante, che se io un giorno dovessi, d'accordo con l'editore, rivedere questo romanzo, questo libro e aggiungere dei romanzi usciti in questi anni, quasi tutti sarebbero scritti da donne, perché la donna più di noi, più degli altri in genere, percepisce quanto è distopica la realtà sul proprio essere. Quindi io mi sono trovato, per assurdo, la scorsa estate a leggere un romanzo distopico scritto da una donna che racconta come il personaggio principale, ma non solo quello, comunque le donne dovevano, per abortire, andare in un altro stato degli Stati Uniti, perché lì era stato vietato e c'era la pena forse di morte, addirittura la pena capitale. Io leggo questo romanzo, che è vecchio, diciamo di 12-15 anni, non mi ricordo, ma poi apro il giornale e c'è proprio la notizia che, ecco, c'è anche questo da dire, che non fai in tempo a scrivere un romanzo distopico che apri il giornale e è già successo. Ci siamo lì già. Sì, perché io prima vi dicevo che pare che noi già leggiamo articoli scritti dall'intelligenza artificiale e che vogliono pubblicare libri scritti dall'intelligenza artificiale, ma è notizia dei giorni scorsi che una casa editrice giapponese ha già pubblicato un fumetto prodotto da un'intelligenza artificiale, alla quale sono state date miliardi di informazioni, di immagini, per cui poi ha creato questo fumetto e l'ha già messo sul mercato. Come? No, speriamo di aver sintrato. Hanno, cioè, c'è questa velocità dei cambiamenti che non diventa difficile anche scrivere qualcosa. Anche perché ci tengono all'oscuro di talmente tante cose che quando sono già notizie... Sono già successe. Noi lo sappiamo perfettamente che stanno già tramando dell'altro, sperimentando dell'altro. E non è facile. Ma non so se ti ho risposto. No, in realtà sì. Un'altra cosa ti volevo chiedere, poi magari se c'è qualche domanda tra voi, qualche curiosità, lascio spazio anche agli altri. E una cosa che mi veniva in mente era: che impatto hanno avuto queste distopie nel loro mondo? Nel senso che ora tu dicevi giustamente che molto spesso le distopie non ci vengono fatte leggere in qualche maniera, o comunque non vengono più di tanto spinte, ecco, questo sicuramente, direi quasi mai. A me viene in mente però, che ne so, quando penso alla distopia, penso che quasi tutti noi viene in mente immediatamente il 1984, no? 1984 di Orwell è financo pop, nel senso che è fin troppo famoso e fin troppo se ne parla, e tanto che è completamente, secondo me, depotenziato, perché ormai è diventata una cosa talmente quasi un modo di dire che l'abbiamo in qualche maniera metabolizzato, non fa più paura di fatto. E che impatto hanno avuto? Nel senso, io ho l'impressione che adesso, per esempio, siamo talmente abituati alle distopie, perché la cosa che dicevo all'inizio, che scriviamo poca letteratura fantastica, ecco, quando la scriviamo generalmente è distopica, rarissimamente è utopica o quantomeno rende conto la complessità, no? Generalmente preferiamo scrivere di robe che vanno malissimo, di un mondo che non solo fa schifo quanto quello di ora, ma è ancora peggio, no? Ora, io ho un po' l'impressione da tanto tempo, devo dire, che questo non ci aiuti, nel senso che mi sembra che la letteratura distopica ha una carica potenzialmente liberatoria, nel senso che ti fa sentire che le tue paure non sono solo tue. Una cosa mi ritrovavo molto in quello che dicevi, che a un certo punto te leggi qualcosa e senti che te lo sapevi già, e senti una connessione con chi lo scrive, e questo è estremamente liberatorio, perché dici, ah, oh, cazzo, allora non sono io matto, ma effettivamente questa è una paura, i sintomi di una tecnologia invadente, di qualcosa di, secondo me, che io avverto come pericoloso, lo sente anche qualcun altro, quindi evidentemente, insomma, però c'è dall'altro lato anche il pericolo, secondo me, che impariamo a sedarci in qualche maniera, che ci abituiamo talmente tanto a una distopia, a un immaginario che tanto andrà tutto male, che alla fine, come dire, è tutto scritto, tutto non può che andare male, e quindi basta, è meglio se mi chiudo in casa, nella mia famiglia, nel mio nucleo protetto, perché tanto fuori è un delirio, i potenti non vedono l'ora di farmi fuori, quindi ma io che sto a far fuori? E che impatto hanno avuto invece, invece oppure a conferma, secondo te, almeno nei libri che hai potuto leggere? Nel senso, alcuni è vero che magari sono sconosciuti e quindi l'impatto magari è stato sedato anche un po' da quello, cioè è stato depotenziato dal fatto che... Ma quando invece sono conosciuti o sono stati, a volte magari mi vengono in mente alcune distopie, sono state anche un po' l'inno di una generazione, di una controcultura, mi viene in mente Dick o della fantascienza distopica, che comunque ha aperto l'immaginario di un sacco di persone. Che impatto hanno avuto? C'è stato un modo in cui queste distopie non ci hanno depresso sostanzialmente, ma invece ci hanno spronato? Sì, è difficile, lo so. No, perché ogni tre parole che dici mi viene in mente una cosa. Allora, guardiamo di andare per ordine. Allora, per esempio, questo libro nasce da Fahrenheit 451, perché il sottoscritto vede quel film che ovviamente si rifà al romanzo di Bradbury, e rimane fortemente impressionato da ragazzino, e realizza che quel modo di raccontare le cose allerta le persone, e quindi può far sì che le persone siano coscienti di qualcosa che non sta andando bene. E il fatto che tu hai coscienza che le cose non stanno andando bene fa sì, come dicevamo prima, che tu possa opporti contestando e contestualizzando la tua protesta. Quindi dovessi dire, questa è la letteratura distopica, in qualche modo, da qualche parte ha fatto bene. Per me ha fatto bene. Ma hai detto un mucchio di cose che io condivido. Per esempio, della distopia se ne fa un uso esagerato in questi ultimi anni, perché col Covid si è realizzato che tutto va a quel paese, e la gente è molto attratta da questo, e quindi tutti scrivono distopici. E io mi sono guardato bene da, specialmente, pescare titoli negli ultimi anni, di cadere in questi signori che una mattina si sono svegliati e hanno deciso di scrivere un romanzo distopico, quando magari tre anni fa neanche avevano scritto un libro, per esempio. Ok, quindi credo che questo non faccia bene all'argomento distopia, perché se tutto è distopico, nulla è distopico. Ok, allora. Un'altra cosa. Sta emergendo un filone di letteratura chiamato solarpunk, che prende in esame invece tutto ciò che la tecnologia ci può dare di positivo, perché ricordiamoci sempre che la tecnologia la facciamo diventare negativa noi con l'utilizzo. Voglio dire, il cellulare ti salva la vita, se ce l'hai puoi chiamare un'ambulanza e stai male, se però continui a stare sui social 24 ore su 24 diventi un ebete. Quindi c'è anche un modo di utilizzare la tecnologia positivo, e questa corrente letteraria ti dice, guarda che non è tutto schifoso, si può anche immaginare un mondo positivo. Bene, bene, poi un giorno comincerò a leggere anche loro. Leggendo la distopia, è vero che, così mi è stato detto, ma lo condivido, se sei in un momento particolarmente difficile, la letteratura distopica non ti aiuta. Sì, perché se sei già depresso, insicuro, e tu leggi certi romanzi, dici non... lascio perdere. Poi hai detto un'altra cosa, hai detto che alcuni romanzi sono stati addirittura una bandiera per una generazione. Allora mi hai fatto venire in mente un manifesto, non so cosa hai detto, per una generazione. Arancia Meccanica. Arancia Meccanica è stato un manifesto, è stata una bandiera per una generazione, però è stato poi preso... cioè non è stato preso come un avvertimento, attenzione, stiamo creando una società dove la soddisfazione dei ragazzi sarà massacrare il primo che passa. Perché poi non abbiamo fatto niente perché questo non accadesse. Ma abbiamo visto generazioni di giovani che poi hanno veramente massacrato il primo che passava. E quindi purtroppo si torna al discorso di prima. Lo puoi leggere un romanzo per quello che veramente vuol trasmettere e non per quello che ti fa comodo, tramutando qualsiasi cosa in una giustificazione per le tue violenze o sì, violenze sociali, che non devono essere per forza delle manganellate, no? Può essere anche tenere generazioni intere a contratti lavorativi da 3 mesi, 1 mese o 1 giorno, come ho sentito, no? Anche quelle sono violenze. Bisognerebbe avere la possibilità, ma qua lo so, è un po' un discorso da vecchi, però io da solo non è che posso farcela. Bisognerebbe che gli insegnanti a scuola leggessero i romanzi insieme agli studenti e gli aiutassero un attimo a realizzare la portata del messaggio, perché questa è una cosa che ripeto spesso, ma spero di non stancarmi mai. E Bradbury ti racconta in Fahrenheit 451 che i pompieri, lui immagina questa società, non vengono più a spegnere gli incendi, ma vengono in casa, prendono i tuoi libri e ne fanno dei falò, li bruciano. Uno dice, vabbè, ma non aveva neanche immaginato granché, visto che comunque gli ha bruciati la Chiesa, i libri, li ha bruciati Hitler, anche Mussolini, poi arriva lui e scrive questo romanzo, non è che abbia inventato chissà cosa, no. Però intanto i libri non hanno mai smesso di essere bruciati, perché qualche anno fa i signori dell'Isis comunque hanno pensato di fare ancora dei falò. Ma i signori dell'Isis, secondo me, in questo sono stati dei dilettanti, perché al giorno d'oggi ti fotografano, ti fanno dei filmati e ti dicono, avete visto i signori dell'Isis cosa fanno? Bruciano i libri, ma vi ricordate chi è che li bruciava? Hitler, Pinochet? E quindi tutti facciamo attenzione a questi signori qua. E non facciamo attenzione invece a chi i libri ce li brucia in un'altra maniera, ed è questo che vorrei che i professori, ma voglio dire anche voi con i vostri amici, figli, nipoti, potreste fare, cioè realizzare che un messaggio non deve essere esattamente quello descritto dall'autore, può essere, diciamo, tramutato ai giorni nostri. Ai giorni nostri i libri ce li bruciano mettendoci in mano, anni fa, le PlayStation e adesso i cellulari. Dico le PlayStation perché quando andavo nelle scuole e parlavo con i ragazzi delle superiori, mi dicevano che loro non leggevano. Io chiedevo perché e loro rispondevano perché non abbiamo tempo. Io rispondevo loro, va bene, forse i vostri genitori non avranno tempo, che vanno a lavorare, poi tornano a casa, la spesa, far da mangiare, ma voi dov'è che non avete il tempo? Non abbiamo più tempo libero. E comunque quel poco lo destiniamo ad altro. Che cosa? E ti rispondevano alla PlayStation. Oggi non ti dicono neanche più la PlayStation, hanno il cellulare in mano ed è già tanto che ti ascoltino. Allora, secondo me, i libri hanno trovato il modo di bruciarceli, cioè ce li hanno tolti dalle mani, in un'altra maniera, ma questo è un mio pensiero. Quindi io temo che come il fascista di oggi non gira più col fez e il manganello, ma bisogna identificarlo, e dobbiamo fare questa fatica, dobbiamo fare anche la fatica di capire dov'è che ci stanno bruciando i libri. Oppure dov'è il Grande Fratello di 1984? Noi pensiamo che il Grande Fratello sia la telecamera che hanno messo nella banca sotto casa? Ma sì, può essere anche quello, ci mancherebbe altro. Però sono 30 anni che paghi al supermercato con una card dove registrano col tuo nome i tuoi consumi. E sono 30 anni che passi dal casale autostradale e paghi col telepass. Quello non era un controllo, non era il Grande Fratello, sei sicuro? io ho dei dubbi, però ma va bene tutto, perché poi io non è che ho la verità in tasca. L'importante è che ci alleniamo a queste realtà, e queste realtà, se vogliamo, le contestiamo. Perché poi sta tutto lì, perché non è che noi stasera tutti insieme ci mettiamo d'accordo che domani mattina fermiamo quei caratteri distopici della nostra società. Non ce la facciamo. Però possiamo raccoglierli, diciamo, e diciamo strutturare un'alternativa, una contestazione, perlomeno una contestazione a questi aspetti distopici, e parlarne. Un altro ci può dire: no, guarda che non è proprio così, e magari insieme realizziamo cos'è la vera alternativa. Oppure l'altro può rimanere a bocca aperta e dire: non ci ho mai fatto caso. Però facciamo verbalmente ciò che i libri fanno con la parola scritta. E non a caso Fahrenheit 451 si chiude come? Che dopo che tutti hanno bruciato i libri, loro dicono: non c'è problema, noi sopravviviamo in un'altra maniera, tramandandoci oralmente i libri. Quindi tu ti chiami Fahrenheit 451, io mi chiamo Arancia Meccanica, so soltanto Arancia Meccanica, e la sera racconto Arancia Meccanica. Quindi è sempre un modo... Vi sto spaccando i coglioni. No, assolutamente, almeno a me no. Che poi mi infero. Ok, andiamo. No, io in realtà ce l'avrei mille di domande, quindi mi devo fermare e placare io. E avete domande voi, curiosità, cose che vi sono venute in mente, avrei spazio anche a voi magari. Ricordando sempre che le domande valgono tutte, non sono mai sbagliate, l'unico che può sbagliare sono io nel darvi le risposte. Sparate quello che volete. Vabbè, ci provo io. Dai, vai. Oggettivamente ha fregato le domande di tutti, perché ha detto un sacco di cose. Però di quello che hai detto, a me sono molto d'accordo, e mi torna l'aspetto contestuale della narrativa distopica, utopica, comunque sia fantastica o immaginaria, nel senso più largo possibile, cioè come ad esempio le autrici attualmente, cioè gli autori e le autrici quindi del momento siano per lo più donne, negli anni 60 e anni 70 invece era più legato a una forma artistica, mentre lo stesso Levi era un chimico, quindi fino agli anni 40, gli anni 50 e i primissimi anni 60 invece la distopia era legata tantissimo agli scienziati, quindi ai competenti. Quindi in questa visione della distopia, un po' come oppure che la distopia esiste in Occidente, non nelle culture, questa roba qua se uno ci pensa è pazzesca, l'Occidente è la cultura per eccellenza legata alla tecnica, ed è un terribile grazie al cazzo che noi siamo gli unici ad avere la distopia in un certo senso. Quindi questa visione è specchio, cioè mi sembra che la superficialità, la mole immensa oggettiva di racconti, di micro racconti distopici che riceviamo, sia altrettanto uno specchio di tempi che viviamo adesso, cioè questa frammentazione, questo relativismo estremo in cui è un po' vero tutto, vale un po' tutto, e abbiamo però la cosa che a me non mi colpisce di più non è l'orribile, è la noia, cioè manca di approfondimento e di dettaglio. Quindi quello che mi veniva da chiedere è con quali, ad esempio quello che dicevi tu della scuola, ma a parte la scuola, quali potrebbero essere delle chiavi di approfondimento, cioè di sviluppare la distopia, proprio perché esiste e sembra che sia un racconto necessario, postmoderno, se vuoi, della società, cioè ce la dobbiamo avere una visione distopica. Attualmente sembra che a marcare il terreno siamo gli stronzi cosmici, e ci riescano tramite questo superrelativismo, cioè quindi quanto secondo te può aver senso che la mancanza sia un approfondimento, un dettaglio personale, individuale, di visione super matta del futuro e del presente, insomma. Quanto ti può tornare questa parte del dettaglio, perché mi è piaciuta molto la parte contestuale, insomma. Cioè di... Allora, i professori che vorrebbero fare qualcosa nelle scuole vengono ammazzati dalla burocrazia e dai dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici in certi casi non ti permettono neanche di entrare nella scuola, tu vieni proposto da un insegnante che magari ha letto il tuo libro e il dirigente scolastico si informa e dice no, quello non entra. Oppure, anche se entra, ti chiedono di... ti pongono dei limiti, perché il dirigente scolastico o non condivide in assoluto ciò che tu vuoi raccontare, o lo condivide ma ha il timore che i genitori dei ragazzi poi vengano a contestarlo. Ecco, così abbiamo tirato fuori un aspetto della società per cui anche quando c'è qualcheduno che vorrebbe darti una mano nel seminare qualcosa, qualchedun altro, chiamiamolo il sistema, Babilonia, chiamiamolo come volete, ha fatto in modo che questo giro terminasse, perché comunque, vabbè, io ho già una certa età, ma quando ero bambino io, i partigiani, che ovviamente erano ancora tutti vivi, quelli che si erano salvati, venivano in classe e ti parlavano il 24 di aprile di quello che era successo il 25. Oggi se proponi di parlare del 25 aprile, apriti cielo. Non so qua da voi, immagino, vai così. Quindi hanno creato un istituto, quello della scuola, per cui diventa complicato fare qualsiasi cosa. Quindi secondo me il sistema si sta autoproteggendo. Se per caso ho assunto un insegnante che mi era sfuggito dalle mie maglie come uno che può far qualcosa, io lo spengo in un'altra maniera. E te ne accorgi perché il professore che ho citato prima, cioè quello che viene contestato apertamente dal capobranco, quinta superiore, dice lei professore non ci ha mai parlato così di questo libro, quest'uomo qua che non reagisce assolutamente di fronte ai ragazzi, quando usciamo dall'aula dopo le due ore mi dice quel ragazzo aveva ragione, ma non ce la facciamo più, dice, noi siamo annoiati da un programma che non ci piace e siamo distrutti dalla burocrazia e dalla paura, non solo del dirigente scolastico, ma anche dei genitori che poi ci contestano. Quindi dice, il parlare come parla lei di libri, noi non ce lo possiamo più permettere. E sai perché io me lo posso permettere? Perché io vengo presentato come lo scrittore contemporaneo. E quindi lo scrittore contemporaneo, una volta che c'è dentro, è lì. Si diceva licenza poetica. Hai capito? Al limite poi gli dai un'etichetta di folle, vabbè. È scemo sto qua, è uno scrittore. Ora parliamo di cose serie. Uno scapigliato. Ma sì, perché no? Non so se forse mi sto perdendo nella risposta, ma ecco, lì già abbiamo spento un po' di falò, no? E in generale poi io cos'è che posso fare ancora? Io se tutto va in porto terrò un programma radio a Genova dove parlo di letteratura, non distopica, parlo di letteratura in genere e ne parlerò come ne ho parlato in questo libro, cioè estraendo frasi dei romanzi, così se qualcuno si è spaventato di queste 700 pagine, ecco, sappia che non sono io che per 700 pagine vorrei spiegare a voi chissà che cosa, no, ho estratto frasi dei romanzi, gli ho dato un titolo per richiamare l'attenzione sull'argomento e anche sull'attualità di quello che si stava dicendo in quel romanzo. Faccio la stessa cosa, vorrei fare la stessa cosa in questo programma, estraendo frasi dei romanzi e proponendole in questo caso agli ascoltatori. Poi mi sono sempre proposto, qua a Firenze mi restate un po' troppo distanti, non riesco a venire, ma mi sono sempre proposto perché in uno spazio gratuito i ragazzi, ma anche chiunque altro, potesse venire una volta alla settimana dove io raccontavo, si fa per dire, un libro a caso, un romanzo a caso, sempre romanzi comunque, mai saggi, sempre romanzi, perché mi piacerebbe che qualcheduno, anche senza andare a scuola, magari perché non ha più l'età o perché magari si è ritirato, possa comunque avere un anello di unione con questo oggetto che se l'hanno bruciato per secoli, e lì ci sarà un motivo, Cristo. È chiaro che sta qua il potere, che è il potere della parola. Ecco, però questa storia qua di avere uno spazio a disposizione dove ci siamo sempre arrivati a un passo ma non si è mai realizzato. No, io dicevo più di incentivo appunto al... appunto come dicevi tu, no? Tu vieni presentato come il matto contemporaneo, no? Cioè, e quindi quasi diventa una questione di autorevolezza, no? E quindi come ricreare un contesto in cui una persona possa, scusate il termine, scureggiare col cervello liberamente, sì, in senso autorevole. Allora, forse bisogna ricollegarsi a ciò che ha detto Pink all'inizio. Bisognerebbe insegnare alle persone e non so però come scusa si fa la parola, no, figurati, che non so come si fa. Bisognerebbe che la gente smettesse di comprare i libri che sono in classifica, perché i libri che arrivano in classifica sono gioco forza, appartenenti a case editrici medio grandi che hanno il potere di distribuire su tutto il territorio nazionale, se no non entrerebbero in classifica. Mentre invece, Pink, tu all'inizio dicevi che ci sono libri di narrativa editi da case piccole che però non vengono letti, ma per forza, o comunque vengono letti sempre da noi, dai soliti, non arrivano al grande pubblico, e questo è un peccato. Bisognerebbe quindi cominciare da molto lontano. Ho tolto l'ampliamento, no. Non so, io quando ero ragazzo era norma far questo. Cioè a volte ti perdevi delle cose eccezionali soltanto perché erano in classifica. Tu un disco che era in classifica non lo compravi. No, ma sì, non era... era così, era... No? L'effetto Juventus. Sì, è così. È così, infatti sono sandoriano io. Mica... perché non ce la fai a stare con chi vince, non... ma era normale. Ma a volte ti piaceva anche un disco, cioè se... un pezzo dei Boni M era orecchiabile e tu gli dicevi no, fa schifo perché è musica dance, ti piaceva ma non lo dicevi, porca troia, perché? No, io vado, mi spacco le orecchie con gli Emerson, Lake & Palmer, era così, che è esagerato, lo ammetto, è esagerato, però cavolo, adesso siamo esattamente all'esatto contrario, per esagerazione sì, anzi mi spiace parlare di me, ma se sono qua di chi è che devo parlare? È Pippo, no? Pippo Curieri di Sicilia.l che mi scopre e pubblica il mio primo romanzo. Lo pubblica nel 99 e lui mi dice: guarda Marco, io ti pubblico e ti dico già che prima o poi ti pubblicherà una casa editrice grande e io ti lascerò andare, non ti chiederò niente. E, boh, non è che non ci credevo, però mi sembrava un po' grossa. E invece poi un giorno arrivo a essere pubblicato per Marco Tropea e Pippo, persona come si deve, cioè l'editore ragusano, mi dice: l'avevo detto io, e così come l'avevo detto io ti lascio andare, cioè di aver ripubblicato un romanzo da Marco Tropea che ho pubblicato io, cioè diceva Pippo, io molti anni prima, ma non chiederò niente, e non ha chiesto niente. Però questo passaggio qua per arrivare a una casa editrice grande è avvenuto tramite un lettore di Parma che aveva letto il mio romanzo, che ha scritto una mail a Gianfranco Manfredi rischiandosela, dicendo: secondo me questo ragazzo, all'epoca magari ero già più vicino ad essere un ragazzo, questo ragazzo meriterebbe di più. Gianfranco Manfredi che si prende il romanzo e se lo legge, lui che veniva pubblicato da Marco Tropea si prende la briga di propormi a Marco Tropea. Stiamo parlando di un mondo da altri tempi, ma completamente da altri tempi. Fai conto che oggi come oggi, se tu vuoi proporre un tuo romanzo a Feltrinelli o Mondadori, non sai neanche dove scrivere o a chi scrivere, perché ci sono gli agenti letterari. Sì, a Einaudi tu non ci arrivi suonando al citofono di Einaudi dicendo: son tizio, c'ho un romanzo. No, tu devi passare attraverso un agente letterario, lo paghi tra l'altro. E poi semmai questo, dopo che te l'ha fatto modificare, lo proporrà a Einaudi. È vero, Te lo fa modificare. Eh sì, perché quando tu parli con un agente letterario e lui ti chiede: ma tu cos'è che hai scritto? Tu gli dici cos'è che hai scritto e lui dice: ma tu hai scritto tutte cose diverse. Beh certo, dico, ho scritto cose che mi venivano da scrivere. Cosa avrei dovuto fare? No, dice, così tu spiazzi il lettore. No, sì, tu il lettore me lo devi rassicurare, quindi quando mi hai scritto una cosa che funziona tu mi riscrivi quella cosa lì, dandoti anche una botta come lettore idiota. Eh sì, perché ti sei provato bene. Io quello, quello vuoi, io quello ti do. Hai capito cosa ti dice l'agente letterario? Ancora prima che la casa editrice. Boh, non so neanche se lo sposto stavolta. Grazie. Altre domande, interventi, curiosità, cose? Io ti vorrei chiedere una cosa che in parte avevi già commentato, che è un po' la questione della saturazione della distopia giorno d'oggi, perché comunque io da appassionato del genere non posso fare a meno di notare che se non tanto a livello di libri, a livello di cinema e serie TV, che è ciò che va per la maggiore, hanno saturato tutto ed è diventato un genere mainstream. Quindi si commentava appunto da ciò che può essere la chiave di volta per una lettura critica della società, ciò che in parte mi veniva da pensare in questi anni e che invece è diventato qualcosa di molto più banalizzato dal cinema e dalle serie TV, di rassicurante, che dopo aver visto un mondo super contaminato, oppressivo, in cui nessuno vorrebbe vivere, le 8 ore in ufficio, la coda per fare il pendolare, diventa qualcosa di molto più confortevole e gradevole. Mi era venuta un po' questa sensazione qua. E così tu mi fai venire in mente il situazionismo. Nel senso, il sistema ha fagocitato la distopia. Dice, ragazzi, se la distopia non riesca ad annullarla, non riesca ad annullarla perché tutti vogliono scrivere, la faccio mia. Ve la propongo io la distopia e vi rassereno, perché poi quando uscite, come dici te, dai, in fondo non è così distopico, non siamo a sti punti. Bene, così diventa rassicurante, cosa che non doveva essere così, doveva essere allarmante semmai. E infatti una delle cose che mi ha spiegato forse lo studioso più famoso d'Italia di situazionismo è, perché dicevo prima, sto situazionismo mi piace, come, ma non riesco ad afferrarlo, c'è qualcosa che mi sfugge. Lui dice, guarda, il situazionismo ha questa peculiarità, ti dice, fai attenzione ad una cosa, il sistema a volte crea un qualcosa di contro per farti star tranquillo. Cioè, per assurdo, se uno gestisse bene il sistema non chiuderebbe tutti i centri sociali mai, perché lo troverebbe controproducente, perché a quel punto è evidente che la gente ce l'ha in quel posto, che non può più pensare in maniera alternativa, e questo non deve più succedere. Il situazionismo ti dice anche questo, ti dice attenzione, quando trovi un'opposizione, un'alternativa e ti giri specchi, fai attenzione che non sia anche quello parte gioco del sistema, che un minimo di oasi te la lascerà sempre, perché non ti faranno mai toccare il fondo, perché se tocchi il fondo, capisci, ti devono tenere a due dita dal fondo, ed è lì il bellissimo, perché tu sei sul fondo ma non lo sai. E allora, ecco, mi è fatto venire in mente questo, perché sono d'accordissimo con te. La distopia, specialmente nelle serie TV e anche in certi romanzi che poi sono diventati film e che io non ho voluto trattare, diventano quasi tranquillizzanti, perché diventa tutto talmente tremendo che poi quando vai a lavorare e prendi 800 euro al mese dopo aver fatto turni 6 giorni alla settimana, dici, beh, ma in fondo è anche normale, cioè è anche discreta come realtà. Sì, temo che mi sfugga di nuovo qualcosa, ma ti ho dato soddisfazione, no? Sì, più o meno. Ha detto tutto lui, lo so, però ogni volta che uno apre bocca mi viene in mente qualcosa e non reggo. Non vi va di dire qualcos'altro? Tanto... Sì, vai. Ma mi aveva incuriosito il fatto, appunto, si diceva prima che un po' dalla cultura occidentale sono uscite un po' le distopie più famose, appunto perché poi c'è il capitalismo forse crea le strutture più grandi, la distopia alla fine esacerbare un po' le strutture che si vedono forse. E mi chiedevo se nel tuo libro però hai trattato, hai trovato anche qualcosa che arrivasse dal mondo orientale, cioè penso a Cina, Giappone ad esempio, comunque in quanto a situazioni tese, distopiche, in realtà anche reali, sul controllo, cioè sono messe forse anche peggio di noi, quindi mi chiedevo se insomma avessi cioè poi appunto, cioè, probabilmente è una situazione più recente, la loro cultura è stata molto influenzata anche da quello occidentale, magari in passato era meno, non so, mi chiedo se comunque qualcosa... Ma tanto mi viene in mente, oggi come oggi, scrivere un romanzo distopico in Cina... Come ne esci? Non lo so mica. Devi probabilmente prima uscire dalla Cina e poi raccontarlo. Però parlando del mondo orientale mi viene in mente un breve romanzo di Jack London che è citato qua dentro, dove proprio dopo la sua esperienza in Cina, aver vissuto lì, racconta della Cina. E anche qua... tira fuori qualcosa che assomiglia molto al Covid. Ci parla comunque di una lotta tra il mondo occidentale e il mondo orientale, che è cosa quotidiana, dove peraltro il mondo orientale, in questo caso la Cina, risponde: guardate, voi occidentali, se siete così bravi e furbi e pensate di veramente sottometterci, venite qua, vi aspettiamo, sbarcate sulle nostre rive in 1 milione di soldati, se ce li avete 1 milione, non c'è problema, noi siamo 1 miliardo, vi aspettiamo, venite, che è un po' quello che ti dicono, non te lo dicono così, non ti dicono sbarcate e noi numericamente vi ammazzeremo, no, te lo stanno dicendo col mercato, ti stanno dicendo non ci vuoi più, ma noi sai che ce frega, siete voi occidentali che 30 anni fa siete venuti qua a costruire le vostre aziende e ci avete venduto le vostre conoscenze e ora non sapete più come fare per produrre coi nostri costi. Te lo stanno dicendo in un'altra maniera, ma te lo stanno dicendo. Sempre per quanto riguarda il mondo orientale mi viene in mente uno scrittore che è stato catalogato come americano, perché se non mi sbaglio gli hanno dato la nazionalità americana, ma Ishiguro dovrebbe essere il cognome, Ishiguro, che parla del suo mondo distopico, se qualcuno mi dà una mano col titolo, ok, perché è interessantissimo. È un titolo che è quasi romantico. Sì, quasi romantico, e anche l'inizio pare romantico, ma la realtà distopica che ci racconta Ishiguro è... una realtà dove i bambini vengono cresciuti unicamente perché fonte di organi, e quegli organi noi quando sarà necessario li prenderemo e li venderemo a chi ne ha bisogno, ovvero quello che poi succede, mi dicono nel non lasciarmi nel deep web, dove mi dicono che i signori molto ricchi che hanno il figlio in dialisi e hanno bisogno di un rene lo possono comprare lì, quando ogni tanto se ne parla di bambini che spariscono specialmente nel terzo mondo e che li ritrovano magari morti con delle cicatrici. Io non so se lui ha anticipato questo mondo o se ne ha preso spunto, comunque è una realtà distopica che ha un'origine orientale, ed è questa, un mondo dove ci sono istituti dove crescono bambini che sono soltanto magazzini di organi per i ricchi. Insomma, alla fine della storia come si torna sempre sulle differenze sociali, sul capitale. Posso dire ancora una cosa? Nel senso che mi viene in mente che tante distopie raccontano di una giustizia, di società dove si vuol far giustizia ma non è mai una giustizia sociale. C'è un romanzo che si intitola Giustizia facciale, dove le persone vengono divise per categorie in funzione della loro bellezza. E quando sei troppo bello, subisci un intervento chirurgico, giustizia facciale, per diventare un po' meno bello, perché con la tua bellezza metti in difficoltà gli altri e noi vogliamo che tutti siate felici. Quante volte ce lo siamo sentito dire? Questo lo facciamo per voi, perché dovete star bene voi, vogliamo che tutti quanti siate felici, e perché siete tutti felici noi vi diciamo che dovete far questo. Bellini, sei te che decidi com'è che devo essere felice, in base a che cosa È importante questo perché non c'è mai una giustizia sociale ricercata nelle società distopiche e questo a volte può sfuggire. Soprattutto è interessante quello che scrive nella prefazione Nico Gallo, che ci ricorda quanto le distopie e le utopie siano parenti, ovvero quanto un'utopia rischi di diventare in breve una distopia. Quindi un'utopia, quando è circoscritta a un numero di persone, ma non è generalizzata a tutti, è già distopia perché non è condivisa. Oppure quando l'utopia creata viene definita statica, cioè non la si mette più in discussione. Cioè abbiamo raggiunto quella che per noi è l'utopia, la perfezione, abbiamo deciso tutto, però da domani e dopodomani, e così sarà per sempre, rimarrà tutto così. È già distopia. Quindi quella che noi oggi adesso definiamo distopia, dai, siamo tutti perfetti in questo contesto, noi tutti, questo è il mondo perfetto, non parliamone più, come tu dici, non parliamone più, o comunque come non ti metti più in discussione, hai già creato un'utopia, sempre in questo posto, sempre noi. Io, se posso, autori orientali, mi veniva in mente, ci sono in realtà dalla Cina diverse cose che stanno venendo pubblicate adesso. La difficoltà che ti dicevi nel trovare, secondo me, rientra nella questione che molte robe non arrivano a noi, perché c'è un grosso problema di traduzione, nel senso che certa letteratura che non proviene dal mondo occidentale, non certa, la letteratura che non proviene dal mondo occidentale non viene tradotta, non, proprio a meno di grandi casi, ma altrimenti non viene tradotta. Ora piano piano, fortunatamente, secondo me c'è un po' una maggiore sensibilità al riguardo, ci sono case editrici generalmente piccole o comunque progetti un po' più piccoli che riescono a fare questo lavoro, per cui sta venendo fuori diversa, ora non so se possiamo rientrare nello stretto della distopia, però della fantascienza per esempio assolutamente sì, anche perché dalla Cina, la Cina insomma, ovviamente avrebbe tantissime cose da dire, ha un rapporto con la tecnologia molto diverso da quello che abbiamo in Occidente. La filosofia e proprio il pensiero filosofico cinese ha un modo di vedere la tecnologia estremamente diverso da quello occidentale, per cui pensare di poter trasporre la fantascienza occidentale in Cina è strano. Quindi magari si ritrovano gli autori che sono un equivalente della fantascienza da noi, però non sono proprio, non hanno gli stessi stilemi, giustamente. Però c'è diversa roba. Ted Chiang mi viene in mente, che scrive racconti dei vivi in Occidente, ovviamente, ma ce ne sono tanti altri. E sta venendo fuori una roba piuttosto interessante, una corrente piuttosto interessante, che qui chiamiamo afrofuturismo. Invece non c'entra col mondo orientale, però insomma anche lì, almeno non occidentale, di racconti anche lì di letteratura fantastica, chiamiamola così, in Africa, che è stra interessante. Purtroppo in Italia è molto difficile da leggere. Ho visto, è uscito qualcosa per la Nero Edizioni, che ha fatto un'antologia di racconti, però non è che si trovi tantissimo altro, quindi probabilmente c'è un mondo là fuori, sì, che noi fatichiamo a leggere, ma anche lì secondo me è doppiamente interessante, perché non è che là non si sono sviluppate utopie o distopie anche legate all'impatto che la tecnologia ha avuto sui nostri corpi, è solo che noi non le leggiamo, ma ci sono e come. Anche dall'India, lui è uno scrittore pubblico, nella metà Gosh, punto. Tutte sei anglosassone, vabbè, in inglese pubblicano un po', comunque arrivano da Roma. Tanto quindi è piccola, non mi altro, che sarà. Infatti, e la tecnologia non ce l'hanno, ci mandano un terzo delle nostre medicine, poi gli diamo i vaccini, a questo siamo bianchi, no? Siamo più evoluti. Si vede. A bestia. Secondo me siamo un po' stretti con i tempi, dobbiamo lasciare spazio all'altra presentazione. Ti ringrazio tantissimo. Vai, fai te. No, cosa hai fatto? No, fai te. No, l'hai bloccato? No. Come no? No. Vedi. No, ora sto ripigliando.